La prima volta. Con l'Andreina, dopo un po' di schermaglie, alla fine ci eravamo presi. Anzi, ci eravamo proprio innamorati. Da principio per me era stato come un fulmine, una meraviglia da non poterci nemmeno credere, da restare sveglio la notte a guardare le ombre delle persiane sul soffitto e chiedermi se la mattina dopo sarebbe stato ancora tutto uguale. Ma in seguito erano diventati alti e bassi. Lei pensava a studiare e a non deludere i suoi. Io ero scontento perché il tempo passava e la prospettiva di ritornare definitivamente a casa, con la coda fra le gambe, mi sembrava che si facesse sempre più vicina. Andreina era bella, dolce e perfetta, ma a me mancava qualcosa. Come se avessi avuto a disposizione nella bocca tutte le parole, tranne quelle giuste che mi sarebbero servite. Lei, il suo futuro, ce l'aveva chiaro davanti, già scritto come una pagina di giornale. Andreina era una di quelle ragazze buone e studiose che sono una benedizione per i genitori e vogliono con tutte le forze ripagare la famiglia degli sforzi che ha fatto. Non avrebbe mai voluto o potuto uscire da questo ruolo. Io invece il mio futuro non lo vedevo ancora, e se cercavo di immaginarmelo era come una linea obliqua, qualcosa di instabile e indefinito. Mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Si intitola 335 il romanzo da cui abbiamo estratto questo passaggio. 335 è il libro d'esordio e quindi la prima volta da scrittore di Ivano Fossati. Un libro che racconta un mondo di musicisti e un'Italia scomparsa, fatta di viaggiatori che al loro ritorno era come se tornassero da Marte, come ci racconta Fossati in questa intervista. Sì, credo di ricordarmelo. L'inizio è stato un giorno che credo che stessi guidando, e mi è tornata alla mente la storia dei musicisti, dei suonatori degli anni 50, quelli che giravano per l'Europa suonando negli alberghi, eccetera. Noi in famiglia ne conoscevamo alcuni, e anzi alcuni altri ce li avevamo proprio nella nostra famiglia stessa. Cioè, chi erano? E noi avevamo un cugino che suonava sulle navi da crociera alla fine degli anni 50 e che faceva la spola tra Genova e New York. Io naturalmente, che avevo 6-7 anni, ero affascinatissimo da questa figura, e poi ne conoscevamo anche altri, perché in famiglia ne avevamo altri. Insomma, dove vivevamo c'erano questi ragazzi coraggiosi, perché per allora ci voleva molto coraggio intanto a scegliere di guadagnarsi la vita suonando, e poi anche di scegliere anche di andare all'estero, di viaggiare molto. Quando questi ragazzi tornavano a casa era sempre come se tornassero da Marte, tutti quanti ci facevamo intorno e volevamo sapere. Quindi ecco, è partita da lì, dall'idea che raccontare una storia che fosse innestata su questo mondo dei suonatori, che vedono la musica dal basso, però niente rock star, niente star di nessun tipo, che fosse interessante, che potesse essere bello. A me ha molto appassionato scriverlo. E mentre lo scriveva ha avuto proprio quel profumo di quei ricordi di quando era ragazzino? È riuscito a recuperarli? In buona parte sì, anche perché il libro io l'ho scritto da lettore, non essendo uno scrittore non potevo avere né parametri né regole che sono quelle degli scrittori, e quindi l'ho fatto cercando di incuriosire me stesso. Ogni giorno ero curioso di sapere come sarebbe andata avanti la storia. E ha cancellato tante pagine oppure è sempre andata abbastanza dritta la storia? No, in generale è andata abbastanza dritta. Le cancellature ci sono state, ma davvero non sono state moltissime. Quindi vuol dire che, insomma, si dipanava molto anche da sola, c'erano dei giorni, dei periodi in cui la storia si dipanava veramente in maniera autonoma da me. Senta, un'altra cosa che volevo condividere con lei è il fatto che mentre lo leggevo, e questa è una cosa che mi era successa anche con un libro di Guccini, lo leggevo con la sua voce, che è una cosa secondo me molto divertente, che probabilmente molti lettori potrebbero condividere. Beh, sì, può darsi, io non ci ho mai pensato a questo, però sì, una volta tanto si conosce la voce di chi ha scritto il libro, quindi si può anche utilizzarla per entrare di più nella storia, sì. Senta, lei ha appena detto che in qualche modo questa trama trae ispirazione da ricordi di infanzia, mentre avevo letto in un'intervista che aveva detto che comunque non c'era niente di autobiografico nei personaggi che raccontava, quindi è semplicemente una sorta di romanzo che trae ispirazione da ricordi del passato, però non c'è... No, non riguarda assolutamente me, ma non riguarda me, magari mi riguardasse, perché ci sono degli aspetti del carattere del protagonista che in qualche angolo mi piacciono. E cioè, quali saranno? Beh, lui affronta la vita con una certa forza, è un uomo acuto, è uno, per esempio, molto distaccato dalle cose, tanto da apparire perfino cinico. E però questo gli dà una bella lucidità, è molto reattivo, per esempio, molto reattivo a quello che gli accade e reagisce subito, non aspetta. Ci sono degli aspetti che mi piacciono, ecco, io non sono lui, però voglio dire, no, potrebbe anche piacermi esserlo, ecco. Senta, invece una cosa che mi piacerebbe che riuscisse a raccontare, se ha voglia, è come si è strutturata la giornata di Fossati scrittore. Ah, ho cercato di darmi delle regole che prima non avevo, perché quando si scrivono le canzoni, insomma, sì, le canzoni si possono scrivere in tanti modi diversi e quindi in tanti momenti della giornata, della vita, ognuno sceglie quello che preferisce. Invece mi è parso da subito che prendersi l'impegno di scrivere un romanzo significa significhi un impegno di ore giornaliere, insomma bisogna alzarsi presto la mattina e scrivere e sforzarsi di far venire le idee, ecco, non aspettare le idee, altrimenti per scrivere un romanzo occorrerebbero anni e anni. Le idee devono essere cercate, ecco, devono essere stanate, e ogni giorno è così. Ma mi è piaciuto molto, è un approccio differente da quello che conoscevo. La prima volta. Le ragazze di Firenze vanno al mare. Le ragazze di Firenze vanno a... Ivano Fossati, genovese, classe 1951, cresce tra i ricordi di viaggi di zii musicisti. In una città piena di stradine popolate, di storie e bambini, pomeriggi al pianoforte studiato di malavoglia. Ma la musica, come dirà lui stesso, gli salverà la vita. Tu dici addirittura che la musica ti ha salvato, diciamo, dalle cattive compagnie, sì, dai rischi che si possono correre in gioventù, ti ha fatto perdere la testa, cioè completamente sì. Ti sei anche dimenticato di prendere la patente sino a 25 anni perché ti occupavi solo di musica. Sì, sono diventato un monomaniaco e siccome è vero che io sono partito un po' zoppicando, insomma la mia famiglia eravamo soltanto io e mia madre e le condizioni non erano buonissime, le compagnie venendo dalla periferia non erano del tutto buone. Sono sicuro oggi che quella passione fortissima che mi ha preso, non quando a 8 anni mi hanno mandato a studiare il pianoforte perché non ci volevo andare, non mi piaceva, più tardi, verso i 14-15 anni, all'arrivo dei primi dischi dei Beatles e degli altri gruppi inglesi, io ho perso completamente la testa e ho capito che avrei voluto fare quello, anche male, mi sarei accontentato anche di farlo male. Ma di fare quello, di avere uno strumento davanti a me. L'amore vero per la musica non andrà mai più via, anche quando deciderà di abbandonare il mondo dello spettacolo. Questa è la motivazione che darà sempre a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Ho pensato, naturalmente non negli ultimi giorni, ma negli ultimi 2 o 3 anni, che questo disco, che con questo Decadenzi io intendo lasciare e non farò altri dischi e non farò altri concerti. Fine della tua carriera? Beh sì. Guarda, ecco, io non so che faccia fare, c'è lo sgomento del pubblico, sì, però cioè, sostanzialmente con questo disco tu dici basta dischi e basta concerti. Sì. Quindi questo sarà il tuo ultimo tour. Sì, sì, è così. È una decisione serena, è una decisione insomma di quelle che si prendono in tanto tempo, per carità. Tu sai anche che non c'è niente di meno definitivo dei ritiri definitivi, no? Nella storia, poi ci si... No, io spero, però ti conosco. Hai ragione. Siccome ti conosco da tanto tempo, invece sono molto preoccupato. Sì, perché... molto. No, infatti io sono molto determinato in questa cosa. Ma perché sei arrivato a questo? Perché... E ora, con un disco così bello? Un po' perché questa è... come dire, motivo più piccolo, che l'ho sempre saputo in qualche modo, ma anche tanti anni fa pensavo che un giorno quando fossi arrivato alla mia età, io ho compiuto 60 anni qualche giorno fa, forse avrei voluto fare dell'altro, in ogni caso cambiare, ecco, e non sapevo bene perché, e non era una decisione presa ovviamente, ma insomma serpeggiava un po'. Invece un motivo un po' più concreto, se posso dire così, è che mi sono domandato se al prossimo album, ipotetico fra 3 anni, 4 anni, 5 anni, io avrei avuto la stessa forza, la stessa lucidità e la stessa passione che ho potuto garantire fino a qui. E ogni volta che mi sono fatto questa domanda mi sono risposto non lo so. E allora ho pensato che la mia vita musicale, la mia vita artistica avrebbe potuto diventare semplicemente un rappresentare me stesso all'infinito, cioè fare dei concerti, fare dei dischi, potrei scrivere forse qualche buona canzone anche in futuro, ma io non lo so se sarei ancora in grado di metterci tutta questa passione e sinceramente, molto sinceramente, non so se sarei in grado di aggiungere qualcosa a quello che si può trovare nel bene e nel male in tutti i dischi che ho fatto. 1000 anni al mondo, 1000 ancora, che bell'inganno sei, anima mia. Il 2012 è l'anno dunque dell'abbandono, col disco Decadencing Fossati saluta i suoi fans. La musica però resterà sempre nella vita di Fossati, che continuerà a suonare, a parlare di musica e oggi a scrivere anche di un mondo musicale, quello nel quale è ambientato il suo primo libro, 335. Che ricordi ha? So che lei comunque continua a vivere in Liguria. Sì. Che tipo di cambiamenti ha percepito nel tempo tra la Genova della sua infanzia e la Genova della sua maturità? Beh, Genova negli anni 60, quando io ero ragazzino, era una città piuttosto buia, piuttosto... sì, ma anche poco illuminata, però di un fascino enorme, un grandissimo fascino. Oggi è una delle poche città italiane, insieme a Torino e poche altre, che diciamo negli ultimi 30 anni è diventata più bella. Le città a volte si degradano un po', oppure vengono modificate, vengono cambiate e non sempre in meglio. Genova invece è una città nella quale credo sia piacevole vivere e credo che probabilmente molta gente se ne stia accorgendo. Che tipo di bambino era lei? Cioè che infanzia ha avuto a Genova appunto? Era spesso per strada a giocare? Che tipo di famiglia aveva? Ma io ero un bambino molto... mi raccontano che era un bambino molto quieto, molto sì, di quelli che stanno in strada a giocare fino a sera tardi insieme agli altri. Avevo molti amici. Fra i bambini si creano sempre delle gerarchie, no? E io di sicuro non ero mai un leader, non lo sono mai stato. C'erano sempre quelli più forti, c'erano sempre quelli più agguerriti, c'erano quelli che comandavano. Ecco, io mi ricordo che non sono mai stato fra quelli che comandavano, questo me lo ricordo bene. Ero molto quieto, studiavo di malavoglia, studiavo veramente di malavoglia, anche il pianoforte lo studiavo di grandissima malavoglia. Mamma, come mai? Non mi piaceva all'inizio, ha cominciato a piacermi più tardi. Ma era per colpa dell'insegnante forse? No, era per colpa mia, assolutamente per colpa mia, perché siccome appunto, come abbiamo detto prima, in famiglia c'erano altri adulti che suonavano, allora era toccato anche a me, diciamo un po', come dire, d'ufficio, mi avevano mandato a imparare il pianoforte a 8 anni, ma a me a 8 anni non interessava assolutamente studiare il pianoforte, e l'amore per la musica è venuto qualche anno dopo. Ha suonato anche il flauto, ho letto, il flauto traverso. Sì, l'ho suonato per qualche anno, lo suono ancora, insomma così, ormai lo suono soltanto per me, però sì. Un'altra domanda che le volevo fare, perché ho letto parecchie interviste anche che la riguardano, e mi è molto piaciuta l'intervista che la sua compagna ha rilasciato, sì, nella quale ha parlato di lei, e un passaggio in particolare secondo me probabilmente ha centrato perfettamente il suo nucleo, quando dice che lei non torna mai sui suoi passi e cerca di non fare errori perché non crede si possano riparare, è così? Sì, è così, anche se è molto schematico detto così, in effetti la vita poi è più ricca di chiaroscuri, però in genere non mi piace tornare indietro sulle decisioni, e sì, è vero, sto attento a fare insomma meno errori che posso, perché poi ecco, se si tratta di piccoli errori, di peccati veniali, sì, magari si possono anche rimediare, ma quelli più gravi è davvero difficile. E quelli più gravi sono relativi proprio alle relazioni, alle persone? Ma sono relativi a tutto, sì, possono certo essere relativi ai sentimenti, alle persone, però insomma c'è tutto un ventaglio di passi falsi che possiamo fare, che veramente è vastissimo. Mi piacerebbe sentire da lei come vede lei in questo periodo il nostro paese, che tipo di prospettive si immagina? Ma è veramente difficile, credo che, cioè io non sono molto bravo, non sono un bravo veggente, sono attento, ecco, posso dire che sono attento a quello che succede. Adesso il nostro paese sembra che attraversi delle continue fasi di rinnovamento, no? Ci sono sempre novità, governi che cambiano, però poi il rinnovamento non arriva mai. Credo che dobbiamo guardare, ecco, per esempio, credo che noi come paese dobbiamo smettere di guardare sempre e costantemente all'interno del nostro territorio, delle nostre frontiere. È venuto il momento per tutti di pensare in termini europei, cioè di guardare fuori, di guardare all'esterno. Qualunque politica, qualunque progetto, secondo me oggi deve essere più ampio, più vasto, cioè è come se avessimo bisogno di avere il fiato più ampio, no? di respirare più ampiamente. Questa è una cosa che mi sembra di vedere chiaro, ecco, in questo mi auguro che il cambiamento ci sia e che vada in questa direzione. Mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. La prima volta termina qua, vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento sempre di domenica, sempre alle 13.30. Potete riascoltarci in podcast, potete scriverci all'indirizzo @radio24.it. Buona domenica a tutti, da Cristina Carpinelli.